Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento con l'Adico, ancora un saluto a tutti voi amici di Blu Radio Veneto e un saluto a Carlo Garofolini. Ciao Francesco, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora Carlo, anche questa settimana due argomenti, l'argomento di oggi è e riguarda una cosa che magari è capitata a qualcuno che girando per la città di Padova o anche per Mestre, in prossimità delle rotaie del tram, la bicicletta si infila tra le rotaie, certe volte si riesce a scamparla e a continuare il proprio percorso, altre volte si cade e ci si fa anche male. Sì, parliamo di biciclette che, come dici, si incastrano sulle rotaie, ma dobbiamo anche parlare di motorini, di scooter che quando piove si trovano frenando, a scivolare sopra la rotaia, ma troviamo anche di persone che con i passeggini o con le carrozzelle o anche che sono invalide trascinano questo carrettino, si incastrano in mezzo alle rotaie e cadono, e che con Mestre e Padova, in che Padova sostanzialmente è stata anche promotore di queste di questi incidenti. Sì, l'apripista, come si dice. Sì, purtroppo diciamo che in questo caso al male non c'è mai fine, perché le persone che si stanno rivolgendo all'Adico negli anni trascorsi, ma ancora fino ad oggi, sono veramente tante, e tante che hanno avuto veramente anche dei seri danni di salute. Si sono rivolte all'Adico per cercare in qualche modo di essere ripagate dei danni. Beh, noi abbiamo avuto casi di persone che per esempio si sono rotte il bacino, sono state 6 mesi a letto, abbiamo persone che si sono capovolte in bicicletta, si sono rotte bracci o gambe, come abbiamo avuto persone che addirittura si sono rotte i denti, come per esempio ne abbiamo avuto di tutti i colori, e addirittura persone che sia durante la realizzazione dell'opera, ma soprattutto fino a ieri, persone che comunque continuano a rimanere vittime di questo rotaie. Padova, come abbiamo detto, è stata una vicenda che ha interessato molti anni fa, Mestre, a differenza di Padova, non finisce mai, perché vanno avanti un pezzo alla volta, adesso stanno costruendo verso Venezia, poi verso Marghera, poi chissà che un indomani vogliono andare anche verso l'ospedale, ma qua veramente si fa fatica a capire la logica con cui quest'opera va avanti. Però che come unico disagio ha comunque i cittadini che si devono districare tra questo binario, e veramente le vittime sono tante. Cosa si può fare? Allora, le persone che si sono rivolte all'Adico, noi in prima battuta abbiamo mandato la documentazione con le fotografie al comune, il quale poi, non da buon istituzione, non esita a lavarsi le mani gestendo la pratica, come inoltrandola sostanzialmente la loro assicurazione, la quale, come tutte le assicurazioni di rispetto, ti dicono che sostanzialmente il fatto non sussiste, in quanto ci sono tutte le segnalazioni adeguate per poter capire che insomma c'è un ostacolo e che questo quindi non viene contemplato come una fonte di disagio, sì, quindi o di pericolo. Quindi l'assicurazione dice: se ci sono i cartelli che lo segnalano, è un problema tuo perché non li hai letti, non sei stato attento. Sì, l'assicurazione dice appunto a picche. In realtà noi sappiamo che il binario non è adatto, quel tipo di costruzione, il binario secondo noi non è una struttura adatta, perché le ruote si incastrano dentro, ma come abbiamo detto, anche quando piove le motociclette scivolano quando frenano sopra questo binario, ed è difficile anche poterlo evitare, perché dove è locato veramente è dove i ciclomotori normalmente cercano di tenere la traiettoria, e a fronte di queste risposte negative chiaramente il consumatore deve decidere se accettare il comune in giudizio oppure abbandonare la vicenda a fronte di quelli che potrebbero essere degli ulteriori costi di accesso alla giustizia, che magari nessuno vuole correre il rischio di dover sostenere. Certo, voi avete già in passato avuto vicende di questo genere, come sono finite? Noi abbiamo avuto diverse persone che si sono rivolte a noi e le pratiche sostanzialmente sono ancora aperte. Stiamo cercando di valutare se, dando corpo a questo gruppo di persone, promuovere una pseudo class action nei confronti del comune, ma prima di arrivare a questo, nell'occasione di questo problema che c'è e che queste città continuano ad avere, proponiamo ai comuni di istituire una commissione e sostanzialmente attivare una specie di organo conciliatore, perché sostanzialmente secondo noi dell'ADICO ci sono delle situazioni che meritano essere valutate diversamente rispetto a quello che è metodo di valutazione di un'assicurazione, perché ci sono delle situazioni così palesi che prima di andare avanti ai giudici e far sborsare soldi ai comuni e quindi ai contribuenti, sarebbe bene valutare caso per caso con una commissione tecnica e capire veramente se ci sono delle responsabilità di cui loro non si possono dissociare. Certo, quindi non andare per forza davanti al giudice avendo tempi più lunghi e anche spese accessorie, diciamo, e vedere se si riesce a risolvere la questione proprio con una commissione di vigilanza, insomma. Sì, noi lanciamo l'appello proprio per questa cosa, cioè nell'occasione di questo problema cerchiamo di evitare le carte bollate, ma ci proponiamo, come l'ADICO fa sempre, di trovare delle soluzioni ragionevoli, perché qua riteniamo che i comuni, l'assicurazione dei comuni a cui sono appoggiati eccetera, non possono fare le orecchie di mercante rispetto a quello che è un bollettino che a distanza di anni sta diventando veramente un bollettino di guerra. Non possiamo credere che siamo tutti stupidi, che ci facciamo tutti male. Qua parliamo di centinaia e addirittura di migliaia di case a Padova. Certo. Addirittura a Padova ci sono stati dei comitati, quindi voglio dire, non siamo così sprovveduti. Se prima non ci facevamo male e oggi con la realizzazione dell'opera ci sono migliaia di persone che si sono infortunate, credo che qualcosa secondo noi bisognerebbe fare assieme per evitare seriamente che questa cosa continui, ma soprattutto anche per evitare che il comune non sprechi soldi pubblici, certo, magari per difendersi davanti ai giudici, che non è questa l'intenzione dell'associazione dei consumatori. Certo, Carlo, anche perché poi se vogliamo, per esempio a Padova non è che il tram c'è da poco, c'è da qualche anno, se non di più. Padova ha fatto la storia su questa cosa, ma Padova è anche una città che ha fatto migliaia di vittime. Qua a Mestre siamo sulla buona strada, ma non siamo certamente con i numeri di Padova, certo, però certamente se dobbiamo raccogliere quelle che sono state le vittime in queste città, veramente penso che possiamo parlare di cifre a 3-0. Va bene, ricordo che c'è il sito associazionedifesaconsumatori.it, che è appunto il sito dell'ADICO. Io, Carlo, ti ringrazio e ci risentiamo tra un paio di giorni. Grazie a te, Francesco, e un saluto a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con ADICO, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.